Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili e Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! Non delegare, partecipa! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Eccoli sempre puntuali qui a Do It Yourself Invasion. 21:15, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Sempre sul filo di lana a provare microfoni, spostare cursori, aggiustare microfoni. Ricordiamo brevemente i contatti della radio: www.ondarossa.info, dove poter ascoltare Radio Onda Rossa in diretta streaming. E quindi oltre gli 87.9 in FM di Roma e dintorni. L'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info. Nonché l'email di trasmissione fantasma@ondarossa.info. Scriveteci per proporci le vostre iniziative, le vostre autoproduzioni. Saremo ben felici di parlarne in questo spazio. Sempre attraverso il sito della radio. Un altro pezzo dalle orecchie al cuore, e quel pensiero non ti fa dormire. Potete partecipare a questo progetto nato libero nel 1977 e che mai come in questo periodo ha bisogno del sostegno di tutte e tutti. È una radio che non campa d'aria, deluso, afflitto, hai combattuto e sei sconfitto, che riesce a trasmettere grazie al libero contributo di tutte e tutti. E quindi potete sottoscrivere appunto andando a cliccare su Sostieni, nonché attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. Il tempo passa, tu resterai deluso, afflitto, hai combattuto e sei sconfitto. Non per ultimo il numero di telefono, eppure lo sai, 06 49 1750, che non ti arrenderai mai a questa vita che non dà una sola chance e brucia dentro come tutte quelle notti al bar. E quindi andiamo subito a presentare l'ospite di questa sera, se insomma abbiamo montato tutto correttamente, dovrebbe esserci qui Valentino. Valentino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Ma quanto sei professionale. Cominci bene, sei proprio portato. Senti. E Valentino, chi è Valentino? L'abbiamo conosciuto qualche tempo fa, forse qualche mesetto fa, abbiamo fatto un collegamento telefonico in vista dell'uscita del primo numero della mia fanzine Disadattac. Mi avevi fatto una telefonata mentre stavo alle prove con il mio gruppo. No, lo ricordiamo che qual è Itsubo. Itsubo. Uno dei gruppi che ho, l'altro è Cenere. X Cenere X. Insomma, i ceneri li abbiamo. I X Cenere X abbiamo avuto il piacere, insomma, di ospitarli in un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, in quella dell'11 dicembre al Forte Prenestino. Yes, avevo la febbre, però ho salticchiato. Però pure questa sera non è che te la passi bene, eh? Sì, ho un raffreddore. Raffreddore. Un pochetto. Un pochino. Mi sono infrangere le bottiglie in pezzi. Vabbè, ricominciamo un po' dal principio, magari. Sì. Allora, come nasce l'idea di questa fanzine? Cosa avevi in mente prima di farla? Guarda, diciamo tre quarti del primo numero li ho fatti senza nemmeno immaginare che sarebbe diventata una fanzine, ma soltanto collage. E quasi per scherzo. Nel frattempo cerco di enfatizzare un po' gli alti, eh? Ok. Vai. Aiutami, trucca la mia voce, sì. Rendila più buon pomeriggio. Perfetto. E niente, e quasi per scherzo ho fatto un'intervista al primo gruppo, i CIB, CIB da Sassari, che abbraccio. E niente, a un certo punto è arrivato quasi alle 90 pagine, spronato dai miei amici, ho deciso di stamparla. E devo dire è andata bene, insomma, è stata accolta anche fin troppo calorosamente. Quante copie più o meno hai distribuito? Allora, 150 più o meno, sì. E ho dovuto fare una ristampa a un certo punto perché 100 erano andate e me le chiedevano ancora, scambi. Infatti con gli scambi sono riuscito a mettere su una distro, una bella distro che speriamo si... No, beh, ampli. Con quali, cioè, ha scambiato con altre fanzine? Altre fanzine soprattutto, da tutta Italia, e poi dischi, CD, cassette. Beh, intimo, insomma, usato. Beh, però insomma, lo richiedevi espressamente l'intimo? No, è che me lo ritrovo, non so. Ah, però, vabbè. Cioè 150 copie, sì, distribuite in giro. Il canale principale di distribuzione qual è stato? Appunto lo scambio, oppure lo scambio, diciamo, la distribuzione diretta durante le varie presentazioni? Non ti saprei dire, forse 50-50 tra scambio diretto fisico ai concerti e contatti via mail o soprattutto Facebook. Sì. Cosa che insomma non gioisco troppo, però purtroppo, per fortuna, Facebook funziona, nel senso che la gente ti contatta lì. Mi sono sempre stato un po' combattuto ad usarlo, però da questo punto di vista mi ha dato una mano. Parlando invece della consegna a mano, sì, la fanzine è stata presentata in diversi spazi in giro per l'Italia. Ce ne vuoi parlare? Dove è stata presentata, appunto, in quali spazi? Guarda, io l'ho sempre portata con me ai concerti dei miei gruppi. C'è stata una presentazione a quello che è stato, diciamo, un evento punk. A Torpignattara, al NED, zona via della Marranella, dove con i compagni abbiamo deciso di fare un incontro punk tra il pomeriggio e la sera con musica, senza troppe pretese, tante distro e insomma per stare tutti insieme. In quell'occasione presentammo la fanzine e devo dire che è andata benissimo, insomma. Ma al NED diciamo si fanno attività con una cadenza periodica, sì, avete sì. organizzato poi altre cose? Domani, guarda caso, ricorre riproponiamo lo stesso evento, Pancaminazione, seconda puntata. Pancaminazione, che se non erro era un termine che si usava negli anni 80, sì, no? Sì. Al momento di fare, in realtà al momento di fare l'evento mi era venuto sto nome, che mi piaceva, da una canzone di Quinto Braccio, e niente, domani ci sarà la presentazione, diciamo, ufficiale della fanzine, poi, anche se ufficiale è una parolaccia, e con tante altre cose. C'è Peppe De Rasters che mette musica, tra l'altro, che tra l'altro lo salutiamo perché qui vuole rimanere silente, ma insomma è presente qui negli studi di Radio Onda Rossa. Ciao Peppe, sì. fai così con la manina, sì, okay. lo ha fatto. E poi proiettiamo un documentario dal titolo un po' lungo, comunque parla della Positive Force, che sarebbe un collettivo punk nato negli anni 80 a Washington, con molti straight edge, che cercava appunto di porre le basi anche per una protesta seria nella loro città, e quindi superare un po' il limite del musicale e della scena positiva della quale hanno posto le basi, per fare qualcosa di più, che è quello che piace tanto a noi. Ti vedo d'intesa. Che insomma d'intesa ne abbiamo parlato a microfoni spenti, appunto, del cercare di proporre altro durante le iniziative, che non sia il divertimento c'è sempre, no? Il lato ludico dell'iniziativa, il divertirsi, quello c'è sempre. La musica, per carità, è la nostra passione, quindi si continua così. Però se è solo autocelebrazione può essere limitativo. Esatto, sì. Quindi si può cercare cercare insomma di proporre anche un altro tipo di socialità, no? Certo, assolutamente sì. È proprio quello, poi cercare di non essere dispersivi, fare sì assolutamente. Anche la fanzine io la vedo in quest'ottica, fare qualcosa da noi per noi, lontano da quello che abbiamo intorno, i circuiti del profitto, autocelebrazione fine a se stessa, immagine, spettacolo. Proponiamo qualcosa di più, di più profondo, dei messaggi, insomma. No, vabbè, in onore di disattenzione rovino tutto quanto, no, appunto per questa puntata si bevono solo analcolici, no, appunto per rimanere più concentrati. Ma fumi la sigaretta, vecchio mio. Vabbè, mi accontento. Ok, ci accontentiamo. Vabbè, tanto in sottofondo 5MDR. Visti venerdì scorso al Punk Ghost Carbognano, bel festivalino organizzato da quelli della Cantina del Goio. E insomma, quando ha cominciato a lavorare su questo numero qui, sul secondo numero di Zed Attack? Ma non c'è soluzione di continuo con l'altra, in realtà. Non smetti mai di scrivere? Non smetto mai, no. È diventata, almeno per questo numero, più o meno un'abitudine. Dei periodi di stop ci saranno stati, sì, ma una certa continuità c'è sempre stata. Infatti comunque il secondo numero esce perché ho contato le pagine, a un certo punto ho detto vabbè, basta, sì, cioè era un bel tomo, ho detto contiamole. Anche perché se il primo numero è uscito, oddio, non mi sento più. Se il primo numero è uscito su due volumetti, questo su tre. Quindi per un totale di pagine 120 pagine. In realtà ne ho scartate alcune perché erano proprio troppe. Quindi vabbè, ho fatto un po' una cernita, alcune le ho tolte, altre ne ho aggiunte. E cosa troveremo su questo secondo numero di Diesel Attack Zine? Tante cose. No, non le diciamo tutte, eh? Cioè, tu dici sempre di lasciare un po' di suspense. Sì, io direi no, tutto. È che devo prendere fiato. Vabbè, almeno una cosa non la diciamo. Ok. Hai capito quale, no? Ah sì? Perché se no poi ce non la cantiamo e ce la suoniamo. Vabbè, ci sarà una sorpresa, insomma. Va bene. Fiore all'occhiello. Vabbè, ho fatto interviste a un po' di gruppi. Warcry, che sono quelli un po' più altisonanti, che sono venuti a Roma a suonare al 360. I Jerk, stessa cosa, hanno suonato nello stesso locale. Poi gli Sfera da Savona. Li conosciamo e li amiamo da queste parti, insomma, li abbiamo scoperti anche noi. Molto bellissimo fighi. Gruppo. Sì, molto emotivo. Mi ricorda un po' i Kafka, che sono un gruppo che adoro. Sempre di quella zona, tra l'altro. Eh sì. E vanno i 5MDR, che sono anche di quelle parti. Di quelle parti, esatto. È una zona, tra l'altro, molto florida per l'hardcore. Bella gente, bei gruppi. E poi ho intervistato i Sendero, che sono un gruppo vegan straight edge dal Cile. E ce ne sono di cose. C'è un'intervista fatta da un collaboratore. In questo numero c'è un collaboratore da Lodi, che è Ivano Invernizzi. Ha fatto un'intervista a un gruppo di Cassino, che sono gli Housebreaking, che fanno death metal. Tra l'altro, no, di Cassino mi viene in mente un'altra fanzine, che è Passione Nera. Ah, ok, sì. Non so se ha avuto modo di... Ancora no, però stiamo chiacchierando da un po', in realtà, perché dobbiamo incontrarci e fare questo scambio, quindi l'abbiamo presentata sempre qui in una trasmissione. E no, molto figa. Poi non è prettamente hardcore, c'è anche metal di quello ignorante, insomma, come piace a noi. Con il primo numero ha collaborato Chris dei Placcaggio, quindi insomma tanta passione, ben fatta, insomma. E no, scusa, ti interrompo con le mie parentesi. No, non c'è problema, anzi, figurati. Allora, vabbè, senti, dopo un po' di chiacchiere passiamo appunto... Ai miei rutti. Ai tuoi rutti, ok. 3, 2, 1? No, non mi viene. Va bene. Senti, allora, Valentino ha portato anche una scaletta a tema con i gruppi che, insomma, ha intervistato in questo secondo numero. E ci ascoltiamo i Warcry. Prego. Give up. E nel frattempo ci arriva una precisazione direttamente dalla fonte. E quindi salutiamo Elena Velena, che è all'ascolto e ci scrive: Punk Am in azione. In realtà scritto con Punk e azione maiuscolo e AM un po' sopra e un po' sotto. Era il nome di un progetto di una fanzine a rotazione di cui furono pubblicati vari numeri, ognuno gestito dalla scena di una città diversa, che raccoglieva il materiale e provvedeva, tutto compreso, a recuperare i soldi per stamparla. Credo ne uscirono 5 numeri, uno diversissimo dell'altro per formato e contenuti. Fu un progetto molto bello. E il nome, appunto, ideato da Elena Velena. Quindi grazie per la precisazione. Eccoci. Sì, no. Grazie per il messaggio e per la precisazione. Infatti sapevo che era un'altra fanzine. Anzi, vabbè, no, correggici più che puoi anche in futuro, Elena, perché ma insomma. Certo. E quindi questo pezzo lo dedichiamo a Elena, sempre dei War Cry, dei Program. Ciao. Nel frattempo, insomma, le migliori chiacchierate sempre, microfoni spenti. No, ci stava raccontando Valentino come era avvenuta l'intervista con i War Cry, insomma, come è stata un'intervista corale, perché prima che salissero sul palco, insomma, l'abbiamo braccati in gruppo. Concerto dove? Al 360, al 360 in St. Lawrence, Rome. E niente, prima del concerto abbiamo fatto un'intervista con quasi tutta la band, tranne il batterista, in inglese, un po' incespicando le parole. Le domande le abbiamo fatte io, Emanuele e Bitto De Nofu, e poi intorno c'erano altri ragazzi che purtroppo adesso non mi ricordo chi erano, tutti amici, insomma. E la cosa simpatica fu che l'intervista l'intervista, diciamo, che era così informale che alla fine si è ribaltata, e le stesse domande che facevamo noi, che abbiamo fatto noi a loro, loro ce l'hanno riproposte, quindi sulla scena. Quindi come c'era un mutuo interesse. Mutuo interesse, assolutamente. Infatti Todd, il cantante, mi ha lasciato i contatti e la fanzine gliela devo pure spedire. E... no, delle grandi persone, insomma, proprio alla mano, come uno poi dovrebbe, insomma, come dovrebbe sempre essere. E poi continuiamo la scaletta, sempre sfogliando nel frattempo la fanzine. Sì, ci abbiamo pronti Jerk. I Jerk, un gruppo da Mendoza, che è una città argentina al confine con il Cile. Anche loro sono venuti qua nel loro tour europeo. Sono dei ragazzi pure loro super tranquilli, e sono stato felicissimo di aver suonato la stessa sera con loro. E, grandissima affinità, almeno, cioè proprio individuale, per me nei loro confronti, perché proprio musicalmente mi piacciono tantissimo, e poi hanno dei testi che sono una bomba, infatti me li sono portati tradotti, e volevo proporre agli radioascoltatori e radioascoltatrici due canzoni, la prima che è Punk Conseguente, come a dire punk conseguente, prima abbiamo detto reattivo, abbiamo deciso sta parola. E prima della canzone vorrei leggere il testo, così prego Valentino, si capisce. La traduzione è fatta con i piedi dallo spagnolo. Allora dice: non vedi che non ha senso, meglio un punk consapevole e attivo. Il concetto viene equivocato. Stai da solo e marginalizzato, hai una A super tatuata, ma in pratica non capisci nulla. Questo non è moda, è un modo libero di vedere le cose. Punk reattivo, non inerte. Tu distruggi la scena locale, non contribuisci a niente e te ne freghi. Il punk è contro lo stabilito e noi facciamo rumore contro di esso. Insieme abbattiamo le barriere, è l'attitudine, il modo, svegli e attivi. Generiamo idee e le condividiamo. Questo è quanto. E allora ce l'ascoltiamo. Jerk, Punk Conseguente. Yeah! E abbiamo un collegamento telefonico. Pronto? Pronto? Ci senti? No, non ci sente. Pronto? Pronto? Sì, sì, sì, ti sentiamo. Allora, ciao a tutti. Anzitutto saluto Valentino, che ci ho avuto la fortuna di conoscere persona. Ma hai un nome? Sì, Valerio. Ah, ok. Piacere, Valerio. Piacere. Ciao, Valentino. Ciao, Valerio. Senti, è tanto che ci segui? Non ho capito, scusami. No, è tanto che ci segui? Oggi dici? Dai, 9 più o meno. Oh, ok. Però... Senti, volevo sapere un parere da Valentina. Allora, praticamente, vabbè, io sono un po' più grande di lui, seguo la scena punk hardcore, punk soprattutto romana e comunque italiana, estera un po' meno di persona per ovvi motivi. Ho seguito il movimento Straight Edge quando a Roma stava all'apice della, come dire, del suo splendore, sostanzialmente. Ma proprio tu? No, io non personalmente, okay. Però ero presente in quel periodo. No, no, io ho sempre fatto parte della frangia non Straight Edge. Però volevo sapere una cosa, mi ricordo che al tempo si toccavano vari argomenti, tra cui sicuramente rispetto adesso un po' meno la politica, ma si toccavano situazioni che erano legate, comunque c'era la causa legata all'animalismo, all'ambientalismo, eccetera. Non so se Valentino c'era e può confermare sta cosa. E io non c'ero tantissimo, perché all'epoca l'ho sfiorata quella scena, perché avevo un gruppo di latina, ogni tanto suonavamo a Roma e qualcuno ne ho conosciuto, insomma, però vabbè, io non di più. Vado a memoria, ricordo la seconda metà degli anni 90, inizio 2000, no? Esatto. La domanda che volevo fare, proprio toccando la cosa, insomma, uscendo dal di fuori un pochettino dai canoni della politica, eccetera, volevo sapere, secondo Valentino, sì, ma alla fine del Festival di Sanremo, vai, Gabriel Garco, dove lo buttano, nell'organico o nella plastica? Allora, so che gli impermeabili dei Blu Vertigo sono biodegradabili, per cui immagino che finiscano a fare i cappellini di Clementino. Dai, regà, bella, buona trasmissione. Un abbraccio. Delle scatole. Ciao. Ci offrirai da bere, succhi di frutta, ovviamente. Ciao, Valerio. Ciao, caro. Ciao. Oi! No, bella questa cosa, no? Fare la trasmissione Do It Yourself Invasion, invitare Valentino, che è uscito con il secondo numero di Disad Attack Zin, e poi parlare di Sanremo. Sanremo, ah, bellissimo. Clementino, codice 002 del televoto. Vabbè, continuiamo con la nostra scaletta. Abbiamo pronto un altro pezzo. Il prossimo pezzo è dei Sendero, giusto? Sì. Gruppo Vegan Straight Edge, che dedichiamo a un compagno Vegan Straight Edge che purtroppo da vari mesi è in prigione. Un ragazzo spagnolo che si chiama Nahuel. E si è fatto 3 mesi di alta sicurezza, PS3 lì. E con grande ritardo gli arrivano le lettere, ma gli arrivano, e sarebbe bello, insomma, che gli scrivessimo tutti, non soltanto per quale episodio è stato ingabbiato. L'accusa è un'accusa aleatoria di terrorismo, come la stessa poi definizione giuridica di terrorismo è un po' così. E... no, dicevi appunto prima delle prove raccolte. Esatto, sì, è una cosa grottesca, perché inizialmente hanno arrestato 5 ragazzi con la stessa accusa di terrorismo. Lui è quello che è rimasto dentro, tra l'altro perché pensano che lui sia il capo, una cosa che assolutamente non sta né in cielo né in terra. E tra le prove che avrebbero al vaglio ci sarebbe un fantomatico manuale, che in realtà è un libretto delle istruzioni di un letto dell'IKEA. È allucinante questa cosa. Fanno come cazzo gli pare, e mandargli lettere ha un grandissimo significato, sia per lui che si sente meno solo, ma anche per questi pezzi di merda che capiscono che un compagno non viene lasciato solo, e dobbiamo reagire, chiaramente. E Disponi adesso dell'indirizzo dove poter scrivere? Sì, l'ho detto. E poi magari prendete carta e penna. Prendete carta e penna, poi rimanderemo sul sito il podcast della trasmissione e lasceremo in calce l'indirizzo, insomma, per poter scriverli. Sì. Anche una cartolina, anche scritto in italiano. Lui qualcosa di italiano lo capisce, che la nonna è italiana. E l'indirizzo è Manuel Bustamante Vergara, Centro Penitenciario Madrid 4, Naval Carnero, CTRA NV, chilometro 277 28600 Naval Carnero Madrid. E hai avuto anche modo di entrare in contatto con i compagni che sono vicini a lui? Sì, sì, stanno facendo vari benefit. Hanno finito un centinaio di magliette serigrafate. C'è bisogno di una mano. Speriamo di poter dare una mano pure noi da Roma nel futuro prossimo. Insomma, dedichiamo il prossimo pezzo. El veredicto. Insomma, sempre su questo numero di Disattack Zin troverete l'intervista di Sandero. Di essere nel giusto, che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. 5MDR, sempre in sottofondo, sempre da Savona e... Bomba. No, non è venuta. Bomba! Ecco, benissimo. E ci abbiamo pronti, sempre passati qui in qualche trasmissione passata. Gli Sfera ci piacciono assai. Assaissimo. Da Savona, post hardcore, bello emotivo, introspettivo. Non lo so, dicevamo che ricordano un po' i Kafka, e la cosa non può essere che bella, se non straordinaria, perché è un gruppo che adoro. Anche con loro c'è stato modo di parlare di Straight Edge, perché sono a maggioranza Straight Edge, credo siano almeno un paio di loro Straight Edge, insomma. E ce l'ascoltiamo dall'ultimo lavoro, che è Nel Buio. Sì, è il pezzo appunto, l'omonimo Nel Buio, Sfera. Vabbè, ci siamo persi un attimo cercando di recuperare tracce sparse nella rete. Ci prepareremo meglio la prossima volta, però lo diciamo. Sì, cercavamo i Terror e l'Aritas, che sono un gruppo da Brno, Repubblica Ceca, un duo grind crust, gustosissimo, bella gente. Noi ci abbiamo suonato a una taz fatta sotto un ponte, bellissima, sotto un ponte tipo come la, di una nostra tangenziale, un botto di gente, e il gruppo è di grande proprio mentalità. E è fatto con Eric, che è il batterista, suona scalzo e parla italiano. Ah, però. Quindi è fatta tutta in italiano e ha fatto uscire proprio fuori tanta attitudine. E fa anche una fanzine. Mm-hmm. Peccato che non abbiamo trovato la traccia. Vabbè, ci prepareremo meglio la prossima volta. Sai, mi ha fatto venire in mente un gruppo cieco. Che ho avuto la fortuna di vedere il Benchivenga ormai credo circa 10 anni fa. Forse qualcuno si è trasferito, non so se sono penso si sono trasferiti in Canada addirittura, i Guided Cradle, molto fighi, li ascolterò. Guided Cradle, sì poi li passeremo qui da queste parti. Ci abbiamo pronto, è vero, ci abbiamo pronto un altro pezzo. Chi sono? Gli Hostiliter, gli ultimi che ho intervistato. Ho avuto il piacere di suonarci qualche tempo fa, a fine gennaio, il 23 gennaio, insieme agli Itsubo a Latina. Sono stato felicissimo di essere riuscito, insomma, a portare un gruppo con così belle persone a Latina, dove, non lo so, si vaga un po' nel buio a livello di scena musicale, underground, spesso. C'è sempre un po' di fermento, i concerti si fanno sempre, però ogni sempre tanto un po' dispersivo. Sì. Non c'è. Si potrebbe fare un po' di più adesso, senza troppo sputare nel piatto, certo, in cui certo. Mangio, per carità. Però certi temi sono un po' ignorati, e invece è il caso, insomma, di considerarle certe cose. Beh, sì. Insomma, il concerto è andato bene, no? Sì, benissimo, certo. E Hostiliter, giusto appunto, lo stavamo ricordando a microfoni spenti, ce l'avremo ospiti. In un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa il prossimo 20 di febbraio all'Ipo di Marino, insieme a Lud Rising, gli Scheletro, che non hanno registrato ancora nulla, però non so se avete avuto modo di vederli dal vivo. Ci piacciono un sacco, tantissimo, metal tiratissimo, irriverenti, antipatici a bestia. Sono antipatici, anti-mosh, anti-tutto. Sì. C'è quel cantante lì, è proprio antipatico, è un personaggio fastidioso, però insomma, vabbè. E i Malclango, ci piace costruire le iniziative così, perché è anche questo Radio Onda Rossa, insomma, dare spazio appunto a gruppi della scena underground, spesso anche ultra underground, insomma, anche gruppi che non hanno fatto uscire nulla. E insomma, ci piace questo spirito qui, insomma. E passiamo agli Hostiliter, appunto. Finiscono sempre a sorpresa i pezzi degli Ustivi, era un po'. No, vabbè, siamo noi che ci perdiamo. Ah, ecco. Allora, già stiamo in pieno territorio di apostasia, che ci perdonerà? Ci perdoni, apostata? Ah, ok, perfetto. Quanto sono buoni gli apostati? Allora, noi ricordiamo un paio di appuntamenti per domani, che avverranno in contemporanea, però noi siamo giovani e pimpanti e ce li facciamo tutti e due. Tutti e due, yeah! Allora, domani, venerdì 12 alle 18:30, al BAM, Biblioteca Abusiva Metropolitana. Quindi ci sarà un'altra presentazione di Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno. E quindi, dopo la presentazione, letture sul carcere, monologo di Giovanna Bartolo Botta, e poi una cena a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi sostenete Radio Onda Rossa, partecipate, insomma, all'iniziativa al BAM di domani, però non vi perdete anche l'iniziativa di domani, che è in contemporanea, però è proprio vicino. Esatto, quadrante est. Cioè, in bicicletta quanto sarà? 10 minuti? Ma 5. Cosa ci sarà domani al NED? Pancaminazione 2, documentario Positive Force. Presentazione di Sadat Akzin numero 2. Quanto sei marziale. DJ set Pepniello, from Rasters, Naples. E quindi cercate di farvi tutte e due queste iniziative, sostenendo la radio e anche i NED e i punks. Porta la distro. E quindi fate come vi pare, o venite, o andate prima al NED e poi venite a BAM, o andate a BAM e poi andate al NED. O ve menamo. Certo, cioè, senz'altro non avete, cioè, non avete nessuna scusa per rimanere a casa. Quindi, cioè, fama capisse. Abbiamo anche. Perché noi siamo buoni e cari, però insomma. Allora, 22 e 11 minuti primi. Andiamo a chiudere questa puntata di Do It Yourself Invasion, che ha visto ospite Diesel Attack Zin. E quindi grazie Valentino di esserci venuto a trovare. Grazie a te, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Un buon pomeriggio a voi. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Saluti. No, non finirei più. La prossima canzone è per la liberazione animale. Ciao ciao. E loro sono i Drop Dead, At the Cost of an Animal. I'm gonna go. E noi ringraziamo tutti e tutte all'ascolto. Noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 21 per un'altra puntata di Do It Yourself Invasion. Ringraziamo ancora Valentino per esserci venuti a trovare. E il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati della loro libertà personale. Quindi rimanete all'ascolto, rimanete sintonizzati, perché tra poco ci sono gli apostati. L'imperialismo sotto terre nuove, la primavera ridondante esplode. Dicono i figli di un'altra gente, e un'altra volta ancora morti per niente. Sotto i palazzi si alzano le fiamme, e gli asserviti lanciano condanne. Credono ancora che un nuovo leader li salverà da sacrifici e da fatiche. Tu resti.